benvenuti nell'abisso ululante. Divertitevi col freddo, la fame, i sussurri eterni di un mondo ormai morto. Ancora con questi sussurri eterni.